Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. La mia fama nascente diffuse sul mio secondo soggiorno a Roma quel sentimento d'euforia che avrei ritrovato più tardi, molto più intenso, durante i miei anni felici. Traiano mi aveva dato 2 milioni di sesterzi da elargire al popolo. Erano naturalmente insufficienti, ma ormai amministravo la mia fortuna, piuttosto considerevole, e le preoccupazioni finanziarie non mi angustiavano più. Avevo perduto in gran parte la mia bassa paura di dispiacere. Una cicatrice al mento mi fornì il pretesto per portare la barba corta dei filosofi greci. Nel vestire adottai una semplicità che accentuai all'epoca imperiale. Era passato per me il tempo dei braccialetti e dei profumi. Poco importa che quella sobrietà fosse ancora un atteggiamento. M'abituavo lentamente alla privazione per se stessa e al contrasto, che mi colpì poi, tra una collezione di pietre preziose e le mani nude del collezionista. Per parlare ancora dei miei abiti, durante l'anno in cui ebbi la carica di tribuno della plebe, mi capitò un incidente dal quale furono tratti presagi. Un giorno in cui dovevo parlare al pubblico e pioveva a dirotto, perdetti il mantello da pioggia di grossa lana gallica. Costretto a pronunciare il discorso con una toga, nelle cui pieghe l'acqua si raccoglieva come in una grondaia, mi passavo senza posa la mano sulla fronte per scacciare la pioggia che mi riempiva gli occhi. Raffreddarsi a Roma è un privilegio da imperatore, dato che con qualsiasi tempo gli è interdetto di coprirsi eccetto che con la toga. Da quel giorno la rivenditrice dell'angolo e il mercante di cocomeri giurarono sulla mia assunzione al trono. Si parla spesso dei sogni della giovinezza. Si dimenticano troppo i suoi calcoli. Sono sogni anch'essi, e non meno folli degli altri. Non ero il solo a farne durante quel periodo delle feste romane. Tutto l'esercito si avventava sulle onorificenze. Assunsi con sufficiente buon umore la parte dell'ambizioso, una parte che non ho mai recitata a lungo con convinzione, né senza aver bisogno dei servigi costanti d'un suggeritore. Accettai di adempiere con lo scrupolo più onesto la funzione noiosa di segretario del Senato. Seppi rendere tutti i servigi utili. Lo stile laconico dell'imperatore, mirabile al fronte, era insufficiente a Roma. L'imperatrice, i cui gusti letterari s'avvicinavano ai miei, lo convinse a lasciare a me il compito di scrivergli i discorsi. Fu quello il primo dei buoni uffici che Plotina mi rese. Ci riuscii benissimo, dato che avevo l'abitudine a quel genere di cortigianerie. Al tempo dei miei difficili inizi, avevo redatto spesso per qualche senatore a corto di idee o di frasi tornite, orazioni di cui finivano per credersi autori. A lavorare allo stesso modo per Traiano, provavo un piacere esattamente identico a quello che m'avevano dato, adolescente, gli esercizi di retorica. Solo nella mia camera, mentre ne provavo gli effetti allo specchio, mi sentivo imperatore. Se vogliamo, imparavo a esserlo. Audace di cui non mi sarei creduto capace diventavano agevoli quando avrebbe dovuto addossarsele un altro. Presi familiarità col pensiero dell'imperatore, semplice ma disarticolato e perciò oscuro. Mi illudevo di conoscerlo meglio di quel che non si conoscesse lui stesso. Mi piaceva scimmiottare lo stile militare del capo, udirlo in Senato pronunciare frasi che sembravano tipicamente sue e di cui ero io il solo responsabile. Altre volte, se Traiano restava in camera, ebbi l'incarico di leggere io stesso quei discorsi dei quali egli non prendeva nemmeno più visione, e il mio modo di pronunciarli, impeccabile ormai, faceva onore alle lezioni dell'attore tragico Olimpio. Queste funzioni quasi segrete mi valsero l'intimità dell'imperatore, persino la sua fiducia, ma l'antica antipatia perdurava. Essa aveva ceduto momentaneamente al piacere che prova un principe ormai avanti negli anni a vedere un giovane del suo stesso sangue iniziare una carriera che egli immagina, con qualche ingenuità, destinata a continuare la sua. L'imperatore detestava distinto i subalterni indispensabili. Sarebbe stato più disposto a comprendere, da parte mia, un misto di zelo e di regolarità nel servizio. A furia d'essere irreprensibile, gli apparivo quasi sospetto. Lo si poté constatare quando l'imperatrice credette di giovare alla mia carriera combinandomi un matrimonio con la nipote di Traiano. A quell'età Sabina non era completamente sprovvista di fascino, ma questo matrimonio, benché temperato da una lontananza quasi continua, in seguito ha rappresentato per me una tale fonte di irritazioni e di fastidi che mi costa uno sforzo ricordare che fu un trionfo per un ambizioso ventottenne qual ero. Ero più che mai di famiglia, fui costretto più o meno a viverci, ma tutto mi spiaceva in quell'ambiente, salvo il bel viso di Plotina. Le comparse spagnole, i cugini di provincia, abbondavano alla mensa imperiale, così come li ritrovai più tardi ai pranzi di mia moglie durante i miei rari soggiorni a Roma, e non dirò neppure che li ritrovai invecchiati, perché sembravano centenari già a quei tempi. Esalava da costoro una saggezza ottusa, una specie di prudenza irrancidita. La vita dell'imperatore era trascorsa quasi tutta alle armi, conosceva Roma infinitamente meno bene di me, metteva un lodevole impegno a circondarsi di tutto ciò che l'urbe gli offriva di meglio o che gli veniva presentato per tale. Il gruppo ufficiale degli intimi si componeva di uomini rispettabili per dignità e onorabilità, ma di cultura un po' goffa, di filosofia senza consistenza, che non si spingeva al fondo delle cose. Non mi è andata mai molto a genio l'amabilità affettata di Plinio, e l'inflessibilità sublime di Tacito mi pareva racchiudere una visione del mondo da repubblicano reazionario, fermo all'epoca della morte di Cesare. I veri intimi erano d'una volgarità disgustosa, il che per il momento mi evitò di correre ancora dei rischi. Usavo però la cortesia indispensabile verso tutte quelle persone tanto diverse, deferente verso gli uni, compiacente verso gli altri, triviale quando occorreva, abile ma non troppo. La versatilità m'era necessaria. Ero multiforme per calcolo, incostante per gioco. Camminavo su di un filo. I corsi che avrei dovuto seguire non erano quelli di un attore, ma di un acrobata. In quell'epoca mi si rimproverò qualche adulterio con le patrizie, Due o tre di questi legami tanto biasimati durarono più o meno sino agli inizi del mio principato. Roma, incline alla dissolutezza, non ha mai approvato l'amore in coloro che governano. Ne hanno saputo qualcosa Marcantonio e Tito. Le mie avventure erano più modeste, ma, dati i costumi che abbiamo, non vedo come avrebbe fatto altrimenti a entrare in intimità con le donne un uomo che le cortigiane hanno disgustato sempre e che già era seccato a morte del matrimonio. I miei nemici, primo tra tutti quel detestabile Serviano, il mio vecchio cognato, al quale l'aver 30 anni più di me consentiva di usarmi le sollecitudini del pedagogo unitamente a quelle della spia, pretendevano che in quegli amori c'entrassero ambizione e curiosità più della passione vera e propria, che l'intimità con le mogli mi introduceva a poco nei segreti politici dei mariti e che le confidenze delle amanti equivalevano per me ai rapporti di polizia di cui mi dilettai in seguito. È ben vero che ogni legame di qualche durata finiva per procurarmi quasi inevitabilmente l'amicizia di un marito, gracile o corpulento, pretensioso o timido, quasi sempre cieco. Ma per solito ne cavavo scarso diletto e meno ancora profitto. Anzi, devo pur confessare che certi racconti indiscreti che le mie amanti mi sussurravano nel talamo finivano per destare in me una simpatia per quei mariti tanto derisi e così incompresi. Quei legami, piacevoli se con donne esperte, diventavano conturbanti se erano belle. Studiavo le arti, mi familiarizzavo con le statue, imparavo a conoscere meglio la Venere di Cnido e la Leda tremante sotto il peso del cigno. Era il mondo di Tibullo e di Properzio, malinconia, ardori un po' manierati, ma che stordivano come una melodia frigia, baci furtivi sulle scale, sciarpe fluttuanti sui seni, commiati all'alba e serti di fiori lasciati sulle soglie. La notizia delle incursioni sarmate giunse a Roma durante la celebrazione del trionfo di Traiano sui Daci. Questa festa, differita per tanto tempo, durava da 8 giorni. C'era voluto quasi un anno per far venire dall'Africa e dall'Asia gli animali selvatici che si volevano uccidere in massa nell'arena. La strage di 12.000 belve, lo sgozzamento metodico di 10.000 gladiatori rendevano Roma un tetro luogo di morte. Quella sera mi trovavo sulla terrazza in casa di Attiano, in compagnia di Marcio Turbo e del nostro ospite. La città illuminata era orrenda nel suo giubilo fragoroso. Quella dura guerra alla quale Marcio e io avevamo consacrato 4 anni della nostra giovinezza diventava per la plebaglia un pretesto di bagordi avvinazzati, un brutale trionfo di seconda mano. Non era opportuno far sapere al popolo che quelle vittorie tanto vantate non erano definitive e che un nuovo nemico calava sui nostri confini. L'imperatore, già tutto rivolto ai suoi progetti d'Asia, si disinteressava quasi del tutto della situazione a nord-est e preferiva considerarla appianata una volta per sempre. Quella prima guerra sarmata fu presentata come una semplice spedizione punitiva. Io vi fui inviato con la carica di governatore della Pannonia e i poteri di generale in capo. La guerra durò 11 mesi e fu atroce. Ritengo tuttora che l'annientamento dei Daci sia stato quasi giustificato. Non v'è capo di Stato che tolleri di buon grado l'esistenza d'un nemico organizzato alle porte, ma il crollo del regno di Decebalo aveva creato in quelle regioni un vuoto nel quale si precipitarono i sarmati. Bande scaturite da chissà dove infestarono un paese devastato da anni di guerra, arso e riarso dalle nostre truppe, nel quale i nostri effettivi insufficienti mancavano di punti d'appoggio, pullularono come vermi sul cadavere delle nostre vittorie sui Daci. I successi recenti avevano minato la nostra disciplina. Agli avamposti ritrovavo un po' la noncuranza triviale delle feste romane. Alcuni tribuni mostravano una sicumera idiota di fronte al pericolo. Rischiosamente isolati in una regione di cui la sola parte di cui fossimo esperti era il nostro antico confine, perseguitare a vincere facevano affidamento sul nostro armamento, che vedevo scemare di giorno in giorno per effetto delle perdite e dell'usura, e su rinforzi che non m'aspettavo di vedere arrivare, ben sapendo che ormai tutte le nostre risorse sarebbero state concentrate contro l'Asia. Un altro pericolo cominciava a profilarsi. 4 anni di requisizioni ufficiali avevano rovinato i villaggi dietro le linee. Sin dalle prime campagne daciche, per ogni mandria di montoni o di buoi solennemente sottratti al nemico, avevo visto sfilate innumerevoli di bestiame strappato ai civili. Se quello stato di cose perdurava, si avvicinava il momento in cui le popolazioni contadine, stanche di sopportare la nostra gravosa macchina militare, avrebbero finito per preferire i barbari a noi. Le rapine delle soldatesche ponevano un problema forse meno essenziale, ma più vistoso. Ero però abbastanza popolare per imporre senza timori le più rigide restrizioni alle truppe. Lanciai la moda ad un'austerità che praticai per primo. Inventai il culto della disciplina augusta, che più tardi mi riuscì di estendere a tutto l'esercito. Rimandai a Roma gli imprudenti e gli ambiziosi, che mi intralciavano il lavoro, e in cambio feci venire qualche esperto di cui difettavamo. Fu necessario restaurare le opere difensive che l'orgoglio delle recenti vittorie ci aveva fatto stranamente trascurare. Abbandonai una volta per tutte quelle che sarebbe stato troppo costoso mantenere. Gli amministratori civili, insediati solidamente nel disordine che segue ogni guerra, passavano gradualmente al rango di capi semi-indipendenti, capaci di qualsiasi esazione nei confronti dei nostri sudditi e di qualunque tradimento nei confronti nostri. Anche qui vedevo prepararsi in un avvenire più o meno prossimo le rivolte, lo spezzettamento futuro. Non credo che eviteremo questi disastri così come non eviteremo la morte, ma dipende da noi ritardarli di qualche secolo. Cacciai i funzionari incapaci, feci giustiziare i peggiori, scoprii d'essere spietato. Thank you. Il mio primo consolato fu anch'esso un anno di guerra, una lotta segreta ma continua in favore della pace. Ma non la combattevo da solo. Prima del mio ritorno s'era verificato nell'atteggiamento di Licinio Sura, di Attiano, di Turbo, un cambiamento analogo a quello che si era prodotto in me, come se, a onta della severa censura che praticavo sulle mie lettere, i miei amici mi avessero già compreso, preceduto o seguito. In altri tempi gli alti e bassi della mia sorte mi impacciavano soprattutto riguardo a essi. Paure, impazienze che da solo avrei sopportato a cuor leggero, si facevano opprimenti se mi vedevo costretto a celarle alla loro sollecitudine o infliggerne loro la confidenza. Mi risentivo di quell'affetto che li angustiava per me più di me stesso e che mai li portava a scoprire, sotto le agitazioni esteriori, l'essere tranquillo al quale nulla importa davvero e che per conseguenza può sopravvivere a tutto. Ma ormai mi mancava il tempo per interessarmi a me stesso, come del resto per disinteressarmene. Calava nell'ombra la mia persona proprio perché il mio punto di vista cominciava a contare. Ciò che importava era che qualcuno si opponesse alla politica di conquiste, ne valutasse le conseguenze e la fine e si preparasse, se possibile, a ripararne gli errori. Il mio posto alla frontiera mi aveva svelato un aspetto della vittoria che non figura sulla colonna traiana. Tornare all'amministrazione civile mi consentì di raccogliere contro i guerrafondai una documentazione ancor più decisiva di tutte le prove accumulate in guerra. I quadri delle legioni e la guardia pretoriana per intero sono formati esclusivamente da elementi italiani. Quelle guerre lontane esaurivano le riserve d'un paese già povero d'uomini. Quelli che non morivano erano perduti quanto gli altri per la patria vera e propria, dato che venivano dislocati d'autorità nelle terre di recente conquista. Anche in provincia, verso quell'epoca, il sistema di reclutamento provocò gravi rivolte. Un viaggio in Spagna, che intrapresi qualche tempo dopo per sorvegliare lo sfruttamento delle miniere di rame appartenenti alla mia famiglia, mi provò il disordine che la guerra aveva condotto in tutti i rami dell'economia. Mi convinse pienamente, al fine, la fondatezza delle proteste degli uomini d'affari che frequentavo a Roma. Non avevo l'ingenuità di credere che dipendesse solo e sempre da noi evitare qualsiasi guerra, ma volevo che si combattessero solo quelle difensive. Sognavo un esercito addestrato a conservare l'ordine sulle frontiere. Ero pronto a rettificarle, purché fossero sicure. Qualsiasi ingrandimento nel già vasto organismo dell'impero mi faceva l'effetto di una escrescenza malsana, un cancro, un'idropisia che avrebbe finito per ucciderci. Nessuna di queste opinioni avrebbe potuto essere prospettata all'imperatore. Era giunto in quella fase dell'esistenza, variabile per ciascuno, in cui l'essere umano si abbandona al suo demone o al suo genio, segue una legge misteriosa che gli ingiunge di distruggere o superare se stesso. Nell'insieme, il suo principato era stato ammirevole, ma le opere della pace, alle quali lo avevano saggiamente indotto i suoi consiglieri migliori, i progetti grandiosi dei legislatori e degli architetti, avevano sempre contato meno d'una sola vittoria. La follia dello sperpero s'era impadronita di quell'uomo, che era d'una parsimonia lodevole quando si trattava delle sue esigenze personali. L'oro dei barbari ripescato sotto il letto del Danubio, i 500.000 lingotti del re Decebalo, erano stati sufficienti a risarcire le elargizioni concesse al popolo, le donazioni militari, di cui avevo ricevuto la mia parte anch'io, il lusso insensato dei giochi, le spese iniziali dei grandiosi progetti militari in Asia. Queste ricchezze malefiche diffondevano una illusoria euforia sullo stato reale delle finanze. Quella fortuna che proveniva dalla guerra tornava a essere inghiottita dalla guerra.